Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal marzo 2012 mette gli altri animali al centro del dibattito su attualità, cultura, economia, consumi e tanto altro ancora, per affermare una prospettiva antispecista che non privilegi quindi, come accade abitualmente, una sola specie su tutte le altre, naturalmente la specie umana. Per questa redazione tutti i viventi sono degni di considerazione e di rispetto. Nella puntata odierna, che è la numero 624, parleremo del sesso dei pulcini, dell'inviolabilità del corpo dei piccioni e dei canili. Il sapore della puntata è a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni, che ci proporrà una ricetta vegana cruelty free a tema e che cucinerà per noi anche le atmosfere sonore di questa puntata. Speriamo di avervi incuriositi. Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday, l'industria alimentare e i consumatori ben pensanti hanno esultato quando un emendamento alla legge di delegazione europea nel mese di dicembre scorso ha stabilito che dal 2027 in Italia sarà obbligatorio determinare il sesso del pulcino nell'uovo attraverso appositi dispositivi spettrofotometrici prima della schiusa delle uova, risparmiando così la vita a milioni di pulcini che attualmente invece nascono e non appena vengono riconosciuti come maschi sono condannati a morte. Questo avviene nelle prime 24-48 ore dalla nascita, un effetto collaterale del consumo massivo di uova. Il sessaggio, l'esame del sesso di un volatile, è un'operazione manuale svolta da un personale molto veloce e ben addestrato. I pulcini da selezionare passano su un nastro trasportatore e pigolano. Sì, perché appena nati cercano subito di farsi riconoscere e trovare dalla loro mamma. Ma invece della chioccia a trovarli sono le mani guantate degli operatori che li afferrano uno per uno senza troppi riguardi, li controllano e poi li dividono. Le femmine vengono messe da una parte in appositi contenitori, mentre i maschi vengono trasportati vivi dal tapis roulant verso l'imbuto del tritacarne, oppure uccisi per soffocamento in appositi sacchi. Molti di loro tentano di fuggire, tornano indietro sul nastro, ma non hanno alcuna speranza di salvarsi. E 40 milioni di vite ogni anno vengono così annientate in questo modo brutale. Ma perché i pulcini maschi sono considerati degli scarti? Perché il sistema di produzione alimentare è basato sul profitto e non vuole certamente accollarsi i costi di individui che cresceranno e saranno improduttivi. Infatti i maschi non producono uova, hanno una carne fibrosa, ma soprattutto crescono molto lentamente rispetto ai loro cugini, i polli broiler, che, essendo stati selezionati, progettati per il mercato della carne, hanno una crescita veloce e abnorme del petto. La pratica di abbattere i pulcini viene vietata non solo in Italia, ma anche in Francia, in Germania, già dal prossimo anno. Lo chiamano progresso tecnologico nell'ottica di una maggiore sostenibilità. E avrete capito dalle nostre parole e dal tono che non stiamo facendo i salti di gioia per questa svolta. E infatti, in una prospettiva antispecista, la nuova norma è più umana solo in modo apparente. Nell'industria alimentare, secondo noi, non può esservi alcunché di positivo per gli animali e le nuove macchine per la selezione e distruzione delle uova maschio non cambiano l'ordine delle cose. Abbiamo chiesto a Rita Ciatti, autrice del libro «Ma le pecore sognano lame elettriche?», pubblicato da Marco Saia nell'aprile 2021, di commentare la vicenda da un punto di vista animalista, antispecista e vegan. Da un punto di vista antispecista, questa notizia non può assolutamente essere vista come un passo avanti, poiché dietro la motivazione principale, che è quella di non uccidere pulcini maschi appena nati, si raggiunge in realtà un obiettivo che è tutto a vantaggio delle aziende e per niente degli animali, cioè quello di continuare a rendere accettabile lo sfruttamento delle galline, normalizzando, rafforzando e quindi rendendo ancora più invisibile lo specismo. In questo emendamento c'è infatti un referente assente, ossia dei soggetti che sono stati resi volutamente invisibili, cioè le galline, le quali, ribadiamolo, nella cosiddetta industria delle uova continueranno essenzialmente a essere allevate e trattate come se fossero delle macchine biologiche atte a produrre uova. Siamo cioè ancora antropocentricamente addentro alla visione cartesiana dell'animale macchina, resa ancora più raffinata, cioè sfruttata fino all'inverosimile e senza scarti. I pulcini maschi, infatti, diciamolo, erano scarti e di certo ora l'adozione di un macchinario che consenta di individuarne il sesso prima che nascano risulta positivo per loro solo in via del tutto accidentale, mentre di sicuro per le aziende consisterà in un profitto maggiore dal momento che nel tempo vedranno persino abbattuti i costi di smaltimento di questi pulcini maschi, costi che altrimenti avrebbero dovuto sostenere. Questo emendamento sposta cioè l'aspetto critico dello sfruttamento degli animali e accende i riflettori sulla notizia apparentemente positiva del fatto che non saranno più uccisi pulcini maschi, ma continua a oscurare l'ingiustizia dello sfruttamento animale. Non dobbiamo mai dimenticare che per le aziende che li sfruttano gli altri animali non sono individui, ma oggetti o macchine e che potranno essere considerati veri passi avanti solo quelli mirati a mettere in discussione definitiva questo uso degli animali e non invece quelli volti a ridurne alcuni aspetti critici o a ridurne la sofferenza. Non si uccideranno più pulcini maschi, quindi, ma si continuerà a far nascere pulcini di sesso femminile, che trascorreranno tutta la loro vita a fare le uova, come le loro madri. Una vita, ricordiamolo, tanto breve quanto di intenso sfruttamento. Una vita a cui sarà prematuramente messa fine in un mattatoio. Non so quindi da un punto di vista antispecista di cosa dovremmo esattamente gioire, dal momento che questo emendamento, come esplicitamente dichiarato nel testo, si inserisce nel solco di quei provvedimenti che vanno sotto il nome di benessere animale e che hanno quindi il solo scopo di regolamentare lo sfruttamento, rendendolo, come detto, più accettabile agli occhi dei consumatori. C'è poi da aggiungere infine che sono le aziende stesse ormai a premere in direzione del benessere animale e non certo perché hanno a cuore il rispetto degli animali stessi, che continuano a essere concepiti come risorse rinnovabili da cui spremere profitto, bensì perché capiscono che a fronte di qualche piccolo investimento, come nel caso di questo macchinario per stabilire in anticipo il sesso degli embrioni nelle uova, avranno poi maggiori profitti in futuro, dal momento che potranno avvalersi appunto dell'inganno del benessere animale. Thank you. Gazzettino.it del Nord-Est il giorno 3 gennaio scorso ha riportato una notizia terribile ma interessante da analizzare. A Vicenza, alla fine del mese di ottobre, un uomo è uscito da un cantiere con un piccione in mano e lo ha barbaramente ucciso in strada davanti ai passanti. Grazie a un video e alla testimonianza di una ragazza che aveva assistito alla scena, le guardie zoofile dell'EMPA sono intervenute per rintracciare il bruto e ci sono riuscite. L'uomo avrebbe ammesso di aver ucciso l'animale perché lo riteneva malato e perché sporcava il lavoro che aveva appena finito. Incredulo che potesse trattarsi di un illecito penale, ha manifestato l'intenzione di denunciare chi l'ha offeso per quel fatto, aggiungendo di ritenersi una persona rispettosa degli animali, in quanto detiene sia cani che gatti, oltre a coltivare la passione per la pesca al tonno. Le guardie hanno proceduto a inoltrare denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza, ipotizzando, a carico del soggetto, l'articolo 544 bis, uccisione di animale. Si tratta di norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali, che sono state introdotte dalla legge 189 del 2004 e modificate dalla legge numero 201 che prevede, in caso di condanna, la pena detentiva da 4 mesi a 2 anni. Sono due le osservazioni che ci sentiamo di fare. La prima riguarda un piccolo ma significativo progresso nella sensibilità collettiva. Anni fa non ci sarebbe stata alcuna denuncia, mentre oggi si inizia a capire che uccidere animali non è un'azione legittima. Quindi è positivo che qualcuno si sia preso la briga di coinvolgere le guardie zoofile fornendo loro un filmato. L'invito a tutti è quello di documentare sempre quando avviene una violenza contro un animale e di denunciare. Poi dobbiamo stigmatizzare un fenomeno ancora molto troppo diffuso che consiste nella vera e propria scissione psicologica e morale di chi pensa di amare gli animali solo perché magari ha un cane o un gatto, che tratta benissimo ma poi va a caccia, a pesca e uccide disinvoltamente un piccione in strada. Da questo punto di vista c'è ancora molta strada da fare, ma l'episodio in sé e il fatto che un giornale abbia ritenuto di sottolineare questa notizia e questo aspetto contraddittorio sono spiragli di luce e di speranza nella direzione che secondo noi è quella giusta. Abbiamo parlato tante volte nella storia di questa trasmissione del dramma dei canili, luoghi di sofferenza e segregazione per tutti quegli individui che, per mille diverse vicissitudini, anche a causa del nefasto mercato dei cuccioli di razza e delle razze che vanno via via di moda, non riescono a trovare una collocazione in famiglia e sono costretti a invecchiare, spesso morire, in piccole e tristi celle, nella desolazione di una vita senza affetto e senza branco, Esperienza devastante psicologicamente e fisicamente per un animale gregario e bisognoso di un gruppo all'interno del quale inserirsi e rendersi partecipe, com'è il cane. Chiudiamo i canili è una proposta, è un libro dei Troglodita Tribe. Vogliamo parlare di questo libro perché, a differenza di molti altri libri sullo stesso tema, affronta una riflessione molto profonda che inquadra il problema nel modo più largo possibile e non si limita a una denuncia fine a se stessa. Abbiamo chiesto agli stessi autori di anticiparci qualcosa di questa loro ultima fatica editoriale. Chiudiamo i canili è un piccolo libro che nasce, sin dal titolo, come una forte provocazione. L'idea è quella di pungolare, stimolare riflessioni sul concetto stesso di canile, sulla sua architettura, sulla sua filosofia, soprattutto sul fatto che lo diamo per scontato come unica possibile soluzione oramai da troppo tempo. Dopo anni di volontariato nei canili, abbiamo potuto respirare in prima persona il suo essere una vera e propria struttura concentrazionaria. Una galera a tutti gli effetti, insomma, un luogo dove vengono detenuti i cani che hanno la sola colpa di essersi persi, di essere stati abbandonati, di essere scappati o di essere nati liberi. La nostra riflessione, allora, è cominciata proprio da qui, dal chiederci il perché, dal chiederci come fosse mai possibile che un'ingiustizia così plateale passasse inosservata fino al punto di essere data per ovvia e soprattutto di essere considerata un male necessario. Il libro è quindi suddiviso essenzialmente in quattro parti che si intitolano il passato, il presente, il futuro verso l'utopia, il futuro verso la distopia. Il passato è una breve storia disinvolta dei canili, dove si racconta quando e perché nascono, dove vengono organizzati e che cosa determinano nel nostro immaginario. In altre parole, come riescono a cambiare il nostro modo di percepire i cani che, proprio grazie alle esigenze sanitarie a cui si risponderà drasticamente con le catture e gli abbattimenti generalizzati, diventeranno, se trovati liberi sul territorio, dei pericolosi latitanti da catturare e giustiziare al più presto. La storia dei canili ci fornisce la chiave per comprendere meglio il nostro odierno rapporto con i cani, il nostro averli trasformati in pet, cani merce, cani robot, che, se non rispondono a determinati requisiti standardizzati, devono essere catturati e rinchiusi. Tutto questo è perfettamente in linea con le strategie speciste fondate sul dominio, che prevedono la reclusione di tutti quegli individui che non si adeguano o che, per i motivi più disperati, vengono considerati fuori norma, diversi. Non a caso, le stesse obiezioni che oggi piovono su chi propone l'abolizione dei canili venivano esternate, prima del 1978, a chi proponeva di chiudere i manicomi. Dove li metteremo poi tutti matti? Quando però, grazie agli studi, alle testimonianze, alla controinformazione, si comprese che la soluzione era di gran lunga peggiore del problema, si dovette accettare che una plateale ingiustizia non può essere sostituita, ma solo abolita, perché soltanto sulle sue ceneri sarà possibile ricostruire una convivenza più serena con chi è stato rinchiuso, umiliato, perseguitato. La seconda parte del libro, quella relativa al presente, descrive le caratteristiche essenziali dei canili, le sensazioni che si provano entrando e partecipando alla vita quotidiana degli internati. A tutt'oggi, nonostante le diverse riforme e le tante battaglie, i canili restano veri e propri luoghi di detenzioni, campi di concentramento dove i cani vengono ammassati e isolati dalla comunità. Li troviamo spesso, infatti, nei pressi delle discariche o in luoghi marginali. La loro struttura è studiata per facilitare il lavoro degli addetti. I box sono uguali e allineati, tutti con la stessa metratura, tutti con il pavimento in cemento. I cani internati soffrono spesso di depressione, stress e molte altre problematiche. Un cane, come è noto, è un animale sociale e isolarlo dal mondo è indubbiamente una vera e propria tortura che peggiora il carattere abbassando, con il passare del tempo, le sue possibilità di essere adottato ed inserito nelle nostre comunità. I canili, oggi, in un perverso disegno consumista che riduce il cane a merce, sono strettamente connessi agli allevamenti che sfornano di continuo nuovi nati per immetterli sul mercato. Notoriamente, quando una merce è stanca o non soddisfa pienamente, deve essere rottamata. E qui entrano in gioco i canili che, nonostante la buona volontà, l'impegno, l'attenzione nei preaffidi e il costante volontariato, sono costretti a raccogliere tutti i cani rifiutati. Si attua così un circolo vizioso senza fine. Da una parte si mettono cani senza alcun criterio, dall'altra si raccolgono gli scarti di produzione. A questo punto il nostro rapporto con i cani si trova ad un bivio e sta a noi scegliere se muoverci verso l'utopia o verso la distopia. Dovremmo cominciare, con la massima urgenza, a destrutturare un immaginario fortemente legato al cane merce. Dovremmo riuscire a superare il concetto di padrone. Dovremmo smetterla di considerare i cani come se fossero i nostri figli, lasciando loro maggiori spazi di autonomia e di scelta. Dovremmo riuscire a stringere legami e, nello stesso tempo, ad allentare i guinzagli. Certo che è difficile, certo che l'ambiente spesso sembra non consentirlo, ma dobbiamo partire dal presupposto che l'80% dei cani del mondo ancora oggi vivono in libertà o sono parzialmente controllati da noi umani. Invece di pensare a strutture di contenzione e carcerazione, allora dovremmo riflettere sul fatto che la svolta che abbiamo dato al nostro rapporto con i cani è radicalmente sbagliata, letteralmente devastante. Ci vuole quindi un decisivo passo indietro per riuscire a recuperare questo magnifico e millenario rapporto che stiamo perdendo inesorabilmente. L'alternativa è la distopia di una vita senza cani, quella dove li avremo definitivamente trasformati in cani merce. Solo un lontano ricordo di quella complicità, di quella scelta reciproca, di quell'incontro con i cani che ha avuto un profondo significato nella nostra evoluzione. Nel libro questa distopia la descriviamo attraverso un racconto apocalittico in cui gli edoghi della Canis International, sofisticati automi che si possono aggiornare e cambiare in relazione alle esigenze personali, sostituiscono giorno dopo giorno i cani veri. Chiudiamo i canili a un taglio radicale, non è un saggio ragionato che fornisce delle tesi ordinatamente argomentate. L'abbiamo scritto animate da una profonda urgenza, volevamo un livello provocatorio sin dal titolo, che si schierasse radicalmente contro la mentalità, l'ideologia, la psicologia, l'etica e l'architettura del canile, che ne smascherasse l'inaccettabile ingiustizia e la sostanziale inutilità. Un livello in cui poter sparare tutto quello che quotidianamente vedevamo e sentivamo, senza sconti e senza ipocrisie. Avevamo proprio l'impressione che mancasse, che ce ne fosse un gran bisogno, che in tanti e tante lo aspettassero, ce l'avessero sulla punta della lingua e delle dita. Il libro, Chiudiamo i canili, di Troglodita Tribe, ortica editrice, pagine 100, euro 10, può essere ordinato direttamente sul sito di ortica editrice. Lo trovate nella collana Gli artigli, che è espressamente dedicato alla liberazione animale e all'antispecismo, ma può anche essere richiesto in libreria o sui principali store online. Chiudere segnalando una seconda uscita editoriale a tema che ci sembra interessante. Se state cercando un libro sul rapporto tra la musica e gli animali, la casa editrice Oepli ha appena pubblicato Quello che fa per voi. Il titolo è Crocodile Rock: storie, aneddoti, curiosità e tutto ciò che unisce musica e animali. Gli autori sono Ezio Guaitamacchi e Antonio Bacciocchi. Si tratta di un libro che per la prima volta raccoglie band, canzoni, strumenti, cuccioli delle star e che racconta a 360 gradi i più interessanti e divertenti legami tra il mondo della musica e quello degli animali. Dal canto degli uccelli al ritmo dei cavalli, dalle melodie delle megattere all'ululato dei lupi, il mondo animale è alle origini del suono. L'uomo ha imparato a parlare, cantare e suonare imitando le voci della natura. Quindi anche in questo campo gli altri animali sono stati i nostri insuperati maestri. Ed è stato soprattutto il pop rock a subire il fascino degli animali, che fossero cuccioli o belve feroci, insetti, serpenti o volatili, dai Beatles agli Scorpions, dagli Animals agli Eagles, dai Dick Dick ai Pooh. Sono stati centinaia i gruppi che dagli anni 50 a oggi hanno preso il loro nome dal mondo animale, spesso incarnandone le caratteristiche. Crocodile Rock, storie, aneddoti, curiosità e tutto ciò che unisce musica e animali di Ezio Guaitamacchi e Antonio Bacciocchi, casa editrice Oepli. Per concludere questa puntata abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci una ricetta rock, vegan, cruelty free. Vediamo un po' qual è la sua proposta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Una ricetta rock a 6 anni dalla sua scomparsa non poteva che essere dedicata al Thin White Duke, genio indiscusso del glam rock e icona di stile. Ma non tutti sanno che David Bowie condivideva il suo appellativo di Duca Bianco con un famoso cocktail a base di tè al bergamotto, mandarino e limone, dal quale trae ispirazione la ricetta che vi racconto oggi. Gli ingredienti per 4 persone per la White Duke Sauce sono un cucchiaio di tè sfuso Belloc White Duke, 100 ml di latte di soia o altra bevanda vegetale, 100 g di zucchero di canna, il succo di mezzo limone, il succo di 2 mandarini, la scorza grattugiata di mezzo limone, la scorza grattugiata di un mandarino, una tazzina di vodka e un pizzico di sale. Scaldate il latte di soia e quando sarà giunto ad ebollizione togliete dal fuoco e lasciateci in infusione il tè. A parte stemperate lo zucchero di canna con la vodka e il succo di limone e di mandarino e mettete sul fuoco con un pizzico di sale fino a quando lo zucchero inizierà a caramellare. Nel frattempo filtrate il latte di soia dal tè e quando il caramello inizierà ad addensarsi, unitelo mescolando il tutto assieme alle scorze grattugiate. Fate ritirare per qualche minuto mescolando con un cucchiaio di legno, quindi togliete dal fuoco e lasciate raffreddare e addensare. Potrete usare questa salsa su una fetta di torta o su una macedonia di frutta, oppure se vi piace azzardare con un contrasto di sapori, su verdure al vapore o formaggi vegetali. Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 625 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.